Il punto di Stefano Folli. Sull'onda dell'emozione dopo la tragedia di Lampedusa, il Senato ha cominciato ad abolire il reato di immigrazione clandestina. C'è da credere che l'epilogo sia già scritto, tempo qualche settimana o al massimo qualche mese, e questo punto fondamentale della legge Bossi-Fini sarà cancellato da una maggioranza trasversale. Ma non sarà indolore per il nuovo PDL di Alfano. Sotto la pressione della Lega, ovviamente contraria alla cancellazione, il partito che fu di Berlusconi rischia di spaccarsi. Il gruppo anti-Alfano può decidere di puntare i piedi e di riconoscersi in una linea più intransigente. Ci sono ragioni politiche per una frattura di questo tipo e anche ragioni elettorali, visto che nel nord la concorrenza della Lega è forte e il sentimento di una certa opinione pubblica non vede con favore l'abolizione del reato. Occorre che il nuovo leader del centrodestra, Alfano, che è pure il ministro dell'interno, trovi un punto d'accordo, sempre che sia interessato a mantenere unito questo PDL.